interessante. Noyos Blacker è, diciamo, è una cosa molto bella, perché non ti fa sentire rumore di nessun tipo. Proprio qua, bellissimo, non senti QRM, non senti nulla, una telefonata in Sarrazzo. Un'altra cosa molto importante. Meno male che sono riuscito a togliere il colpo, il cazzo, cioè gli imbattimenti. Mamma mia, tutti questi baracchini, cazzo, l'hanno quanto sono male, l'FM500S, l'Intec, mamma mia. Purtroppo l'FM500S era un grande apparecchio, io l'ho avuto, me l'hanno anche rubato dalla macchina uno. Era un grandissimo apparecchio, veramente bello. Io l'avevo modificato, c'avevo un microfono che praticamente era normale all'esterno, poi dentro era un amplificato praticamente. Usciva un bel fossi. Certo, ma quando qualcuno attaccava, io non intendi più nulla. Tanto io lo usavo in macchina, solo in macchina lo usavo quello lì. A casa c'avevo lei in quinto, chiama Aristocrat, e la mantova uno. Chiappa, ma però quelle apparecchi sono molto impattinenti. Per fortuna sono riuscito a togliere queste cose. Sì, ma vedi, per dire io, il 48 l'ho piazzato un po' di tempo in macchina per farlo girare un po', ma non si poteva stare dai rumori che c'erano. Cambiavo le marce, si sentiva il rumore delle marce quando cambiavo, il cristallo si sentiva, suonava senza avere il straccio, cioè non era schermato per nulla, ma non la macchina, l'apparecchio, perché con questo che c'ho non me lo fa. Non sento nessun tipo di rumore. E tante volte anche l'apparecchio, non è solo il fatto del coso. E comunque, diciamo che ho risolto un bel, con questo apparecchio ho risolto un bel, tanto è vero che io me ne prenderò un altro uguale per la Panda. Gappa, che già la Panda è un pochettino, però molto buono, cioè va bene. Non la fa manco con la Panda adesso, perché se c'è questo Noyos Blacker non la fa manco con la Panda. Tutto male che vado me lo tengo di scorta, guarda. Infatti in Panda non ne sto più mettendo, c'ho antenna, c'ho tutto, però non ne sto più mettendo proprio per questo cacchio di rumore che si sente, il rumore, mamma mia. Quella nella macchina che è poco schermata, magari con un apparato del genere potresti risolverlo, dovresti provarlo. Ma tanto la Panda non la sto usando per andare a lavorare, quindi no, prima non usavo un po' la Panda e un po' quella lì, adesso mi sono un po' scocciato, anche per farla girare un po' quella macchina di semplicità, capito? Luca? Eia, sono qua. Prenditela. Hai visto la benzina, sta andando alle stelle. Si conferma. La mattina anche sono andato a fare un giro con l'ortologio con la moto, ho detto così vado a farmi la benzina, e invece sono arrivato al rifornitore, c'era solo quella colonna lì dove siamo andati noi ieri. Gli altri non funzionavano. Poi vado a pigliare su, dicevo 20 euro, ho chiesto se me le cambiavo, non vedevo, c'era una fila astronomica, non c'era uno che ci aveva due da 10, ma non si filavano, grazie, sono durata la riserva fissa. Cazzo, vabbè, non potevi andare dall'altro, no, oramai, tanto lì sono tutti baratti, quasi, andavi dall'Aesso, andavi. No, ma non è per questo imbarazzo, lo dicevo 20 euro, erano chiusi i fornitori, non lo so bisogna venire, invece non ho visto uno aperto. Niente. Ero con Marcolino, ho detto io ce ne andiamo e buonanotte, papà se non ti basta, e già basta, andiamo piano piano, siamo durati 80 all'ora, e a voglia che basta. Già, poi magari la metterai, in seguito. Sì, la metto domani. Che paghiappa, speriamo bene che si passi. No, già basta, lì. No, ma la metto, non si sente a Palottosi, la metto qua, e la metto qui via Pascoli. Voi la metti qua, ma è vecchia. Infatti non fanno. Alle scale di scendere no, rimango in mezzo alla strada. La metti lì e pazienza, fa una volta. Ma se non ando con un bidone da 20 litri. E comunque non mi fotti più l'altro giorno, ho dovuto lasciare 3 euro nel rifornitore perché non c'è stata tutta, c'era l'automatico, ho messo 10 euro, 3 euro in meno ce n'è stato. Scappa, che cosa di manco, le altre due nocchi già erano abbastanza, massimo se l'ha passato 1 euro ma pure un bel miracolo. Ma non era vuota vuota, tanto. Se avessi avuto per dire una bottiglia l'avrei messa. Chiappa, facciamo due bottiglie. Comunque come ne portassero sempre qualcosa di quelli piccolini, un bidoncino. Infatti, perché regalarla a loro già costa la benzina, regalarla così mi c'è un po' le scatole. Luca, Luca, Luca, Luca, tu dove vai a mettere la benzina? Via Pascoli, la Laggi. Tu non guardi risparmio? Cosa me la fatta a me? Non va, risparmio. Va. Tanto chi più chi meno, capito? Chi più chi meno, pagappa. Pianto, se avessi viaggiato come viaggio io avessi guardate come. Quando tu fai un pieno risparmi un bel po' di soldi ogni volta. Quando devi viaggiare che viaggi 4 volte al giorno, già lo guardi. Posso, purtroppo è così. Motorino non consuma, cioè consuma la mia, perché c'ha. Come si chiama? C'ha la i pezzi, consuma. E quanto è di cilindrata? 75. Ma le fate da poco? Ma cosa state? No, l'estate scorsa. Cosa hai messo? Pulita. Però deve mettere che durano di più. Io non li conoscevo questi DR. Mettevo sempre Pulini o Sito. DR sono in ghisa, durano di più e costano di meno. Non è che li farà solo per le moto moto triassimo. Tutte le moto le fanno la DR. Se hai messo tu lui, DR? Mi sembra di sì. Scappa. E conviene mettere quelli perché, guarda, me l'hanno detto anche molti che preparano scooter. Dice, li per qualche accorgimento li fai appena tu. E che dice, così dicono, sì, gli altri magari fanno un pochettino di più gli altri. Però cosa succede? Che si pompano prima. E cioè si ingrippano tutto, invece quelli lì sono buoni perché tengono un bel, capito? Invece gli altri sono un po' così. Ma ci sta sempre a manettone? No, anche se tu vai a manettone con quelli lì non li rompi. Vabbè, degli accorgimenti, fai fare un po' di rodaggio, quando metti i pesi, l'olio un po' più grasso, la benzina, la miscela un po' più grassa, di modo che scorrano bene all'inizio, poi puoi abbassare. Scappa. Così è. Noi ce l'abbiamo spesso, i motocarri, poco vanno bene. Il sale è benissimo, carica, va alla grande, è molto allegra. Il cilindro di Eva è visto come altro, cioè, sono i migliori. E Luca, c'è la preparata Eva, devo essere. Ma certo, la mia c'ha la mia carburatore normale, poi a rapporti a lungo e pezzi, basta. Ma c'è il rullo da lungo di quelli che ecco per è cambiato, quelli da lungo ce ne sono. Che leggeri sono? Quelli per strada lunga sono, dai. In salita come ti va? Vabbè, adesso c'era già un po' qualche annetto, dai, poi il petalo già una, quasi un anno, è un po'... hanno calato, non hanno più potenza come prima, è normale, no? È normale, comunque già gira, dai, la spingiamo. Ma così in fretta ha fatto, che strano, che strano. Dura un po', calco come se mette il pezzo originale sempre, buco. Che ti credi che il pezzo originale ti dura molto? Ma lascia perdere! Tanto se non provo a contare, io molto ne ho avuto una, due, tre, quattro, cinque ne ho avuto di otto. E non so come fanno i pezzi originali. Solo sì, avevo truccato e basta, avevo messo i pezzi 75 e la marmitta a prova. E le altre non le ho toccate, anzi, solo la marmitta ci aveva la Leovinci. Il Burgma 750, ma 150. Abbiamo messo la marmitta. E pezzi, posso dire, sono nel Burgma 150, gli ho cambiato solo i rulli e basta, non gli ho cambiato altro. Oh già, io dico una cosa, ma guarda che noi il pezzo originale, il Piaggio, ne abbiamo avuto 50 maniere, cioè siamo lo stesso coso, ma guarda che hanno finito inciudati pure. Oh, lascia perdere, cioè logicamente la moto quando tu ci fai 10 km in un anno, così ti cala un pochino, ma è normalissimo, è una cosa normale, però ti dura pure. Come ti dura quello originale, ti dura anche quello non originale, cioè se tu li tratti bene durano. La mia moto c'ha 4 anni di vita quasi, e chilometri ne fa. Cammina sempre come il primo giorno che l'ho comprato, tanto te lo posso dimostrare come quando vuoi. Ma stiamo parlando di un altro motore e di tutto, noi stiamo parlando di motore a due tempi. Il motore a due tempi è così. Non sbaglio. Tutto anche le serre, ho fatto anche con le serre, c'erano le serre 50 io. E facevo 6 riporto 8 ore, se camminava un bel punto. Allora, se molto lo fai bene, usi uno buono, e la tratti bene, ti dura una vita. Ma se inizi a già trattarla male, è bello, non gli va più bene. Devi trattare bene la moto, la mia la stessa volta tratta bene, però è così, ci ho mischiato altro tipo di olio non buono, diciamo, andatela, e i pezzi un po', se è olio grasso già si impasta, no? E un po' te li rovina, adesso qui bisognerebbe smontarli, pulirli bene, di nuovo cambiare le fasce e tornare come prima. Io usavo Repsol come olio. Io sto usando, vabbè, quello che ho regalato, uno che era Castrol, della Castrol, l'ho già messo quello, però l'ho mischiato con un altro, ecco perché, ero quasi mi stava segnando, ecco, allora ho mischiato, no. Mischiare gli oli è un po', cioè l'olio è l'anima del motore, questo diceva il mio meccanico. Diceva, ricordati sempre che l'olio è l'anima del motore, se tu cambi l'olio il motore va bene, se non lo cambi diventa un'incrostazione completa. Lo so già, però il problema è sempre l'olio, quello che comanda. Se tu gli metti olio che non serve a niente e poi ti ribigliano come le borsava. Infatti io gli ho sempre messo senti 2000 nella macchina, e l'olio che metto in questa moto qua è quello della casa, non gli metto altri tipi di olio. Gli ho messo solo una volta senti 2000 perché ero senza olio per arrivare, cioè senza olio, era al minimo flusso. Per arrivare a farmi fare il cambio dell'olio, dei filtri, tutto quanto, a farmi fare il tagliando, gli ho messo 72.000 e andato a Roma a testa. Lo so, purtroppo già, e gai giù con giù, capito? E gai. Se la tratti bene, cioè se la tratti bene, fai sempre la manetta, va bene. Soprattutto con tanto peso dietro, secondo una persona intendo. Lo so. Cappagappa. Diciamo che lui è l'animale motore, non c'è niente da fare, a me il meccanico me l'ha sempre detto. Lasciami lì tutto quanto, ma l'uso mettili quello buono. Positivo. Il motore da due tempi è molto particolare, sono sono motori particolari, che basta un niente le inchiodi. Basta che scenda, che si guasti solo il miscelatore, basta solo guastarsi, che non stia pompando bene olio, cioè un tantino di meno, cazzo, fa inchiodare i pezzi, è micidiale. Infatti noi adesso che lo sappiamo, noi ne mettiamo sempre un tantino nella benzina perché è un micidiale. Lo so. Quelli lì sì, col miscelatore sono un po' un problema, ma poi lo fa molto le motocarre quel lavoro lì, no? Chiappa. Ma diciamo che se funziona tutto bene non lo fa quel lavoro lì. Però bisogna stare molto attenti, il motore a due tempi è sia motorino, sia motocarro, sia quello che è micidiale, soprattutto teme molto le discese del motore a due tempi. E tutti lo sanno che vedo un bel di volte le inchiodature, perché sono successe in discesa, soprattutto in vanità, e per forza a chi ha i detti ruvisi danno a manettone in discesa va su di giri e ti spacca tutto, ma comunque io sì che ho avuto, avevo i pezzi, eppure è sempre andato bene, fino a quando l'ho venduto bene, l'ho venduto a 600.000 lire e con questo lì mi avevo comprato la 500, fatelo conto. E dopo una settimana quello lì l'hanno rubato. Che pagato. Purtroppo è così già. Il motore a due tempi è terribile, soprattutto sui fuori cazzo, è micidiale, ti può andare bene ma ti può andare male, perché scaldano su, e poi d'estate non ne parliamo, d'estate bisogna stare molto molto attenti sui viaggi lunghi, soprattutto, perché inchiodare si fa subito anche, molte volte hai un colpo di culo che si inchioda, cioè che ti dà un'inchiodata, magari ti affretta un po', però ce la fa a camminare, cammina poco ma ce la fa. Molte volte ti si inchioda e non mette più in moto. Lo sbaglio più grosso che ho fatto è dare le serre nuovo per comprarmi il Kimco 150. Quel Kimco è stata la moto più fregatura di quella, non ce n'era. L'ho comprata nuova di zecca ed è partita sin dall'inizio con difetto. Le serre mi sembra che a due tempi, no? Le serre ce l'avevo nero, bello, mi piaceva anche un bel, avevo messo il parabrezza per il vento, perché qui c'era un portatore, c'era un medio vento, e ho messo il parabrezza davanti, ma era un bel bella, ci avevo messo proprio il parabrezza originale, quello delle serre, e camminava bene, poi le avevo messo la marmitta, camminava di brutto, poi le avevo messo, sono andato a Mariani e gli ho detto praticamente se mi metteva i rulli da lungo, mi ha messo questi rulli da lungo, mi ha detto secondo me io preferirei metterti i misti, e ho detto me li metta come vuole, l'interessante è che vada la notte, me li ha messi i misti e non mi grande va come era prima, allora gliela vorrei messi normale di nuovo, se ho rimesso il rullier e andava di nuovo bene, perché se no la sanità non ti tirava un cacchio, invece così con normale andava bene tutte e tre le maniere, ma camminava quella moto lì, se gli avevo messo il contachilometri, tutto quanto, bello, cazzo, originale, tutto quanto, ci aveva, guarda, era troppo bella. Che appagato, e comunque è un minchione, poteva metterti quelli a lungo e basta. Mi ha messo quelli a lungo e me li ha mischiati, mi ha messo un po' di a lungo, un po' la salita, ma non rendeva, si cagava in salita, invece poi c'aveva serpentone, quindi in salita un po' si faceva addosso, poi fa la da guria, e ho fatto mettere quelle nuove originali, andava benissimo. Poi sono andato un giorno, stavo facendo un giro così, sono passato vicino a via Mendola, salgo su di lì, cavolo, vedo tutto morto, e poi stavo guardando le morte, ho detto quanto è che viene un 150? E lui mi ha detto un'onda 150, e lui mi ha detto e viene tanto, ma ti conviene a prenderti questa, c'hai i pezzi dell'onda e costa di meno. E ho detto ma come, sì, è l'onda fatta in Corea, cioè tutto uguale al motore Honda, però ne ha avuti dura, lo mandarono pure in moto, guarda, ma non volevo la pirifrella. Poi mi hanno fatto mettere l'allarme e mi si incantava l'allarme e non mi metteva in moto la moto, guarda, una volta per dottore si è bloccata la moto, cavolo, non riuscivo più a metterla in moto. Mondezza, ieri in via Napoli era. E adesso a Predanita, si vede che era scappata a Predanita. Fatto sta che me ne sono pentito amaramente, con quella moto lì ce l'avevo un annetto, ma mi andava come un gioiellino, non mi ha mai dato problemi, consumava poco, camminava un bel, ma faceva lo stesso tanto di quella lì che era 150, se poi faceva 120 quella moto lì. Dai, è pigliato Mondezza anche. Ma se vuoi che le serre camminavo 80 da quando me l'hanno data, quando mi ha tolto le strozzate le faceva gli 80. Buona, cioè per essere una moto 50 camminava. Da quando mi ha tolto le strozzate camminava di più. Poi gli ho fatto un po' di lavoretti, i rulli, gli ho messo la marmitta, eccetera, eccetera, e camminava bene, Farada, non c'è 120 magari, ma 110 sì. Erano buone, per carità, guarda già, oh Giulia, che gente. Vabbè, purtroppo ci sono queste cose, secondo me se mi lasciavo prendere l'onda forse la fare l'avrei fatto, avrei sarei andato in meglio, ma mi ha fatto pigliare su Gattaro, già che non mi piaceva come estetica, ma ha convinto lui, guarda che si usano così, ma qua, ma là, bomba, e mi ha fottito. Allora, sicuramente lo sai cosa è, magari ci guadagnava sul prezzo, ma lo so che era un tazzino di... era un imbecille quello lì. Vabbè, già lo conosci di tutti, però andare tutti a comparare. Allora. Perché ha assortimento, tu, io dico la verità. Te lo ricordi il telone della moto? Ho aspettato un bel di tempo da quella ragazza che ti ho detto. Poi alla fine mi ha detto, ascolta, io ne ho la faccia in terra, me lo dovevano mandare, non me l'hanno mandato, io ti torno in su di buonanotte. Mi dispiace. Dove posso comprarlo? Guarda, non te lo so dire chi ce l'abbia questo qua. Poi sono sceso da lui e ce l'aveva, non ce l'avevo del colore che volevo io, grigio come volevo io, ce l'aveva marroncino, che non è mia zia, ma la giubilea della matrice, perché tanto? Il lavoro che fa è quello. Quello Tucano. Sì, Tucano. Già l'ho visto già. L'ha anche la moto del mio principale l'ha messo. Ehi, Tucano sono migliori perché ti compro tutta la moto. Dal parafango sino a dietro. E sono anche corti. No, io c'ho il max. quello che copre tutto anche col mauretto. Chiappa, chiappa. Ecco già, ma sono buone. E il principale c'è la cosa, c'è l'X9, Piaggio, lo conosci, però c'è il, non il 250, 500, e poco cammina. Io ci credo, già camminava l'altro. Capo, c'è preso quello lui. Cioè, perché c'è il 125, il 250 e il 500. Ah, dice il gatto che neanche da quando cammina è anche pericoloso. Io mi sono seduto, Cazzo mi ha spinta che cazzo. Io lo so. Anche la mia non è che va piano, Se la tiri cammina anche la vita. Ma oggi mi sono andato piano perché c'è Marcolino, se no l'ho fatto per farla girare un po', perché l'altro giorno stava girando le tizze, prima ha messo in moto il primo colpo, poi l'ho dovuta spegnere perché doveva fare la sella, siccome si apre dalla chiave, non si deve spegnere, poi spingere la chiave e girare a destra. Ho alzato la sella perché mi avevo dimenticato il casco, come al solito. Ho preso il casco, mi ho messo il casco, vado a mettere la moto, si è ripresa la moto in moto. Che pianta. Ah, che quella lì dico che non è male, mette in moto subito anche con le snobbe. Va bene, adesso ce l'hai su ferma, perché adesso non la sta usando perché c'è freddo. Ma io ci ho anche viaggiato per scendere qua, perché molte volte mi accompagnava lui. Se poco mi camminava. E tu quando c'era da... Già cammino. Bisogna stare solo attenti in mosso, non basta. Ciappa. Ti dico anche che da quando ce l'ha... non gli ha dato molte noie. Va bene, è riuscita bene come moto. E poi la Piaggio, i gatti si ritrovi subito perché sono in Italia, tutte queste cose qua. Molta gente calcola quello, li paghi meno. Io già sono un po' bubbi di noi, Ma comunque. E comunque è una moto che va bene. Ora il motore non gli ha mai fatto nulla, è solo che cambi d'olio, quelle cose che ci vogliono. Non gli ha mai dato nessun problema al motore. E va bene. Io sono a Salvatuio. Ma Salvatuio era verniciato con una vernice che lasciava dei residui, andava alla fine della pompa e faceva casino. E allora dalla fabbrica me l'hanno cambiato gratuitamente, non me l'hanno fatto pagare manco la mano d'opera, niente, me l'hanno messo in ferro, adesso cos'è? Forse, non so se è la miniera, cosa sia, acciaio, cosa ne so. Vabbè, metallo l'hanno messo e adesso va benissimo. Ma se questa moto rallentava, andava più piano, non tirava, l'ha già subito arrigata, ma questa moto non cammina. Mi ha cambiato subito la pompa, dice no, non è la pompa. Me lo faceva lo stesso, allora mi ha detto lasciami la moto che ti ho dello serbatoio. Anche quando il serbatoio me l'ha fatto vedere, c'era tutto questo pulviscolo della vernice che si intasava tutto. Cioè non facciamo passare la benzina bene. Oh, comunque, anche l'X9 è un'ottima moto, C'era il bottino che viene da noi. C'è il 250 già, anche quella fa bene, non è male, però il 500 è più ideale. E allora se provi il coso, come si chiama, il 50 della Suzuki, come ce l'aveva fratello Natalino, quello lì fa 200 e passa orari. Se provi la nuova Gilera che è uscita, la madre si gota. L'800. Non si può buggare la moto, la madre che mi risparmia. Ne ho ho visto una tutta distrutta da coso, da quando sono andato, siccome lì non c'era nel negozio, sono andato a cercare nel negozio del padre, e lì c'era parcheggiata ogni giorno, 800 tutto quanto distrutto, avrei avuto qualche incidente. Scusa, è una becciora sotto mano, grazie, un momento. Oh già, è pronto a mangiare, dai, ti saluto. Vabbè, dai, vado anche a mangiare, anche io devo mangiare. Forse mi toccherà anche a me. Ma gaffa, a me mi hanno già chiamato. Ciao ciao. E a me anche se non mi chiamano vado lo stesso, visto che c'è pomagno. Gaffa, ciao ciao. Ciao ciao Luca, dai, ci sentiamo dopo.